rossa. Oggi parleremo ovviamente di tutte le cose che la realtà del movimento della situazione carceraria ha messo in luce, ma sostanzialmente di una cosa. Oggi, in queste ore, probabilmente lo sapremo stasera nei giornali radio, nei telegiornali, la Consulta, ossia la Corte Costituzionale, è chiamata a decidere in merito ai libri e ad altre, diciamo, libertà, tra virgolette, diciamo, piccoli spazi di libertà per i detenuti e le detenute in 41 bis. Quindi parleremo, vediamo un po' di rifare la storia di questo 41 bis, che cos'è, cercando di capire che cos'è, al di là e oltre le chiacchiere che fanno i politici, i tecnici, i carcerieri, perché una cosa è quello che dicono loro, una cosa è la realtà scusate, del 41 bis. Perché c'è, nonostante, appunto, e perché viene inasprito sempre di più? E questo dovremmo scoprirlo, perché vedremo, comunque vediamo, e poi vedremo altre cose molto a volte connesse con questo. Comunque, partiamo proprio dall'articolo che abbiamo trovato ieri su Repubblica. Tra un attimo lo leggeremo e poi andremo insieme a scoprire che cos'è il 41 bis. Allora, così qui ancora in diretta. Dunque, l'articolo di ieri su Repubblica, a firma di Liana Milella, che tratta spesso dei problemi della giustizia, quindi Repubblica del 7 febbraio, dice così: libri e carcere duro, decide la Consulta. Domani i giudici costituzionali si pronunceranno sul diritto dei mafiosi, già attenzione alle imprecisioni, no? Dei mafiosi al 41 bis di ricevere pubblicazioni. La norma oggi vieta che siano spediti da amici e parenti, e punto. Prevarrà l'esigenza di sicurezza o il principio di libertà? Tocca alla Consulta domani scegliere tra le superiori esigenze della sicurezza e i diritti di chi, pur sottoposto all'isolamento e alle restrizioni del carcere duro in quanto mafioso, il famoso 41 bis, pur tuttavia rivendica il suo diritto a spedire e ricevere libri e riviste, che invece oggi proprio una frase del 41 bis vieta espressamente. C'è, e poi aggiunge, c'è un magistrato di sorveglianza di Spoleto, è lui che ha fatto l'istanza alla Corte Costituzionale, si chiama Fabio Gianfilippi, che il 26 aprile dello scorso anno si è rivolta alla Corte Costituzionale raccogliendo l'appello di un detenuto recluso nel carcere di Terni. E poi continua, in realtà già ci sono degli errori in questo articolo ed è bene metterli in, perché l'errore nasconde l'esatto significato del 41 bis. Allora dice due volte, ripete, si pronunceranno sul diritto dei mafiosi al 41 bis rispetto ai divieti di ricevere libri e riviste, e poi ripete successivamente il carcere duro in quanto mafiosi. Allora, intanto un dato, al 41 bis attualmente ci sono ristrette circa 680 persone, quasi tutti i maschi, sono 3 o 4 le donne, questo è il numero. Ora, la pubblicistica, cioè perlomeno i giornali, la televisione, continuano ad affermare che in 41 bis ci sono i boss mafiosi. Prima considerazione: se i boss mafiosi in questo paese fossero 680, è chiaro che probabilmente i problemi sarebbero un po' più grossi di quelli che abbiamo attualmente. E in realtà non ci sono, c'è qualche boss mafioso, poi ci stanno anche il numero 680 è grosso, ci stanno anche persone accusate di far parte di attività mafiosi, però non per esempio alcune persone hanno rubato una macchina e questa macchina poi è stata utilizzata da un'organizzazione, qualcuno gli ha chiesto di rubare una macchina, gli ha dato un compenso e loro hanno dato questa macchina rubata ad un'organizzazione mafiosa che l'ha usata per i suoi traffici, e queste persone vengono accusate di fiancheggiamento di attività mafiose e vanno quindi in 41 bis e non sono boss mafiosi, no? E poi comunque ci stanno anche altre due categorie, le persone accusate di cosiddetto terrorismo interno o internazionale e le persone di spaccio internazionale di stupefacenti, quindi non, primo errore, non sono tutti mafiosi. Ma il problema, comunque, questo è quello stasera, probabilmente più tardi, finora non è uscito niente, ho visto poco fa in internet, non è ancora uscita la sentenza, probabilmente stasera sentiremo dai telegiornali o dai giornali radio quale sarà stata la decisione della Corte Costituzionale. Intanto vediamo perché e come è nato il 41 bis, seguiamone un po' la storia, però io vorrei fare così, invece di raccontare tutta la storia lunga e pedissequa, molto molto articolata, molto complessa, che però poi rimane, di cui rimane poco credo nella mente delle persone, perché fai tutta una storia lunga, allora soffermiamoci sugli snodi, che sono pochi, 3 o 4, e questi possono rimanere in memoria e quindi uno gli rimane la conoscenza di perché è nato il 41 bis, che cosa significa e che ruolo ha nel sistema carcerario italiano, senza vedere poi tutto il questo può permettere a ciascuno e ciascuna di ragionare su che cos'è il 41 bis, farsi una propria opinione e utilizzare poi ulteriori notizie per dare più ampia conoscenza, però intorno a questi nodi centrali. Allora, intanto il problema fondamentale è che l'articolo 41 bis non è altro che la il ristabilimento di un articolo che era già presente nella riforma del 1975. Da lì bisogna partire. Allora, siamo nel 1975, sono passati 30 anni dalla fine del fascismo, del 45 al 75, tuttavia le carceri italiane sono ancora in regime con le leggi e i regolamenti del periodo fascista. Non è stata fatta nessuna riforma, nonostante i tentativi, le proposte fatte. Qualche piccola cosa è stata cambiata, ma non il modo con cui vengono trattati i carcerati e le carcerate. Nel 75 intanto c'erano già un decennio di lotte e rivolte alle spalle, erano cominciate nel 68 le lotte e le rivolte nelle carceri, con un grosso sostegno dell'esterno, dei movimenti che c'erano allora, segnavano la realtà sociale italiana e che imponevano una riforma. Allora, le prime proposte sotto l'incalzare delle lotte, le prime proposte di questa, di questa riforma grossa vengono appunto dalle rivolte, dalle lotte, dall'esterno, che dalla gran parte della società esterna che affiancheggia i detenuti nelle loro lotte e che propongono delle grosse riforme. La riforma comincia a ballare tra Camera e Senato, ovviamente il quadro politico di allora era molto reazionario, la destra e il centro democristiano era reazionario per definizione, la sinistra sul carcere ha sempre avuto molte titubanze, la sinistra di allora, la sinistra del Partito Comunista, e quindi queste serie proposte di riforma nel passaggio tra Camera e Senato hanno avuto molte attenuazioni, molte cadute, molti tagli, eccetera. Tuttavia la riforma del 75 prende corpo nel luglio del 1975, la legge 354, che dice una serie di cose, perlomeno cambiando lo schema del carcere fascista, e però alla fine, come ultimo articolo di questa riforma molto compendiosa, arriva all'articolo 90. L'articolo 90 dice esattamente queste parole: quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, il ministro di giustizia, allora si chiamava Grazia Giustizia, ha la facoltà di sospendere in tutto o in parte l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari per un periodo determinato, strettamente necessario. Sospendere quindi delle regole di trattamento e gli istituti previsti dalla presente legge. Quindi importante l'inciso, no? Dice in caso, parla per frenare le rivolte, dicono: noi abbiamo messo su sta serie di riforme che sono diritti e concessioni ai detenuti, però nel caso di motivi di ordine e sicurezza interna, quindi nel caso di rivolte, grosse evasioni, eccetera, il ministro può sospendere tutti questi benefici per un periodo strettamente determinato e strettamente, la parola è sua, strettamente necessario, e le regole di trattamento, la normalità, e questo è l'articolo 90. L'articolo 90 viene diffuso molto, allora considerate che poi due anni dopo, nel 77, vengono fondati i carceri speciali. Allora, primo ragionamento su questa cosa: riforma, però articolo 90 e poi due anni dopo carceri speciali. Che vuol dire? Vuol dire che ogni cambiamento dell'assetto, dei rapporti tra carcerieri e carcerati, tra padroni e salariati, tra padroni e schiavi, cioè tutti tra chi sta sopra e chi sta sotto, tra oppressi e oppressori, si muove intorno nel momento in cui, nella fase in cui c'è un conflitto, un grosso conflitto tra le due parti. In questo caso c'erano appunto 7-8 anni di rivolte alle spalle, le rivolte continuano nel 75, anzi i detenuti, utilizzando queste aperture che la riforma aveva dato, amplificano il loro meccanismo di conflitto e fanno dei conflitti spaventosi, aumentano anche le rivolte e soprattutto le evasioni. A quel punto sono costretti a fare una stretta e quindi nascono i carceri speciali. Che cosa sono i carceri speciali? La differenziazione, dicono: vabbè, ci stanno quelli più cattivi, cosiddetti, quelli che organizzano rivolte, evasioni, eccetera, li mettiamo in alcuni carceri che sono particolarmente difficili per evadere e sono particolarmente difficili per fare le rivolte, quindi con tanti guardie rispetto ai detenuti, con la detenzione in celle in genere cellulari, cioè con una persona sola, comunque molto più poche ore d'aria, 4 ore d'aria soltanto, 2 la mattina e 2 il pomeriggio, per il resto celle chiuse, a volte anche oltre il cancello anche la blindata chiusa, a volte anche lo spioncino chiuso, insomma secondo le cose. Ora, come dicevo, appunto ogni modifica sta dentro. Quindi l'apertura delle riforme era venuta grazie a questo grosso movimento interno e appoggiato dall'esterno nelle carceri, che aveva aperto la situazione. Dall'altra parte, però, diciamo, lo Stato ha paura, vede che non si fermano nonostante quelle piccole concessioni, anche perché i carcerati avevano fatto delle loro proposte, erano organizzati in collettivi allora nelle carceri, avevano ottenuto anche questa grossa, avevano conquistato questo grosso spazio, organizzarsi in collettivi. Considerate che nelle carceri è vietata ogni forma di organizzazione dei detenuti, perché prende subito la forma dell'associazione per delinquere, in quanto sono, tra virgolette, delinquenti. Chi sta in carcere, no? E vabbè, però l'avevano ottenuta appunto sempre all'interno del, grazie a quel rapporto di forza che si stabilisce a volte tra carcere e carcerati. Quindi riforme, articolo 90, carceri speciali. Questo avviene a metà degli anni 70. Ragionamento. L'articolo 90 è una forma di deterrenza, dice: noi abbiamo dato queste riforme, vabbè, non so quelle che volevate, però qualcosa è rispetto a prima, molti spazi di più ovviamente. Se però continuate a fare cattivi, c'è il carcere speciale, in cui perdi tutto quello che queste, torni al carcere vecchio praticamente, anche peggio, tutti questi spazi in più. Inoltre c'è anche l'articolo 90 in cui togliamo proprio tutto, cioè praticamente significa isolamento totale, per coloro che fanno ancora più i cattivi. Quali erano queste forme durissime dell'articolo 90? 1 ora d'aria al giorno, al massimo 2, in non più di 3-4 persone all'aria, il colloquio con i parenti, con i vetri divisori, e ci si parlava o col citofono, quindi nemmeno sentivi la voce, ma sentivi quel rumore metallico portato dal citofono. E diciamo, i pacchi viveri ridotti al minimo, quasi nulla riusciva a passare e così via. Però ovviamente la lotta dei carcerati e della parte di società che sta con loro continua, quindi questo articolo 90 è un po' come una fisarmonica, a volte viene ristretto, a volte grazie alle mobilitazioni, in cui gran parte della società prendeva spazio e quindi si allargava, si restringeva, secondo appunto i rapporti di forza che si stabilivano sul campo, sul terreno, cioè nelle carceri e nelle realtà cittadine che solidarizzavano col carcere. Questa è la parte, diciamo, degli anni 70. Questa cosa va avanti, poi negli anni 80, verso la metà, nella seconda metà degli anni 80, quel periodo di rivolte si affievolisce, durava già da 10-15 anni, le evasioni diminuiscono, la realtà esterna si affloscia, insomma la situazione perde quel carattere di emergenza che ci aveva. Quindi queste misure, carceri speciali e articolo 90, vengono praticamente cassati. Non c'è più la necessità di avere queste misure emergenziali, perché l'emergenza non c'è più. Questo è il primo punto da tenere. Quindi il 41 bis non è altro che la riedizione di questo meccanismo. E arriviamo quindi agli anni 90. Agli anni 90 cominciano, nella seconda metà degli anni 90, cominciano delle grosse attentati per... intanto c'è da tenere presente una data: nell'86 c'è la riforma Gozzini, un'ulteriore riforma che, poiché la riforma del 75 era stata giudicata dai carcerati, ma anche dagli ambienti di giuristi che stavano dalla parte dei carcerati, allora ce n'erano abbastanza, e anche da parte di settori della società che stavano dalla parte dei carcerati, viene appunto giudicata insufficiente la riforma del 75. Quelle parti che erano state sottratte dal Parlamento alle rivendicazioni dei detenuti vengono riproposte nella cosiddetta riforma Gozzini dell'86, che non a caso viene chiamata la riforma della riforma, perché riformava, cioè restituiva quelle cose che erano state sottratte alla riforma del 75, e abbiamo quindi la la legge Cozzini. La legge Cozzini, anche qui, come una legge di forma, concede un sacco di cose. Per esempio, la cosa più importante sono i permessi premio, la possibilità che un detenuto o un detenuta, dopo aver scontato un quarto della propria condanna, qualunque essa sia, che cosa fa? Ha la possibilità di avere dei permessi secondo il comportamento, quindi permessi premiali, infatti si chiamano permessi premio. Secondo il comportamento, se il comportamento è buono, avrai questi permessi premio. Significa poter uscire, anche se è una pena lunga, mettiamo 20 anni, dopo 5 anni di carcere si può avere qualche permesso, andare a trovare la famiglia, la moglie, la fidanzata o il fidanzato, chi sia, insomma, quindi la possibilità di stare qualche giorno, tornare qualche giorno a casa e poi rientrare. Questo è un grosso è la carota che arriva dopo il bastone. Col bastone abbiamo visto non si riusciva a fermare definitivamente le lotte, e allora offrono anche questo bastone. Cioè, se vi comportate bene, non solo non ci saranno quelle misure punitive, articolo 90 e carceri speciali, ma subentreranno altre concessioni, come appunto i permessi premio, poi verrà appunto la situazione il lavoro all'esterno, la possibilità di lavorare all'esterno e così via. Bene, questo è il meccanismo. Anche qui però, alla fine di tutte queste belle cose concesse, c'è un altro articolo al termine, che stavolta non si chiama articolo 90 ma si chiama articolo 41 bis, e dice così: in casi eccezionali di rivolta, specifica proprio di rivolta, e altre gravi situazioni di emergenza, il ministro ha la facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti. Come vedete, è esattamente la riedizione di quello che era l'articolo 90. Qui addirittura è ancora più specifico, che dice non solo per il periodo strettamente necessario, ma nell'istituto o in parte dell'istituto, cioè se avviene in un reparto, una sommosa, soltanto in quel reparto di un carcere, mettiamo il carcere di Rebibbia che ha 8-9 reparti, se avviene in quel reparto non... diciamo l'articolo non è la sospensione delle concessioni, non avviene in tutto il carcere ma solo in quel reparto, è per il periodo strettamente necessario fino a ristabilire la situazione. Concretamente questa lunghezza poi viene fissata in 3 mesi, perché giustamente il legislatore dice nelle norme applicative, dice: se in 3 mesi una direzione dell'istituto, il ministero non riescono a ristabilire la normalità in un carcere, vuol dire che sono incapaci. Quindi non è più un problema, perché se c'è una rivolta, qualcosa eccetera, e c'hai 3 mesi di tempo e non riesci in 3 mesi a ristabilire la normalità, evidentemente il difetto sta nel manico. Quindi il massimo era 3 mesi, però in genere duravano 15 giorni, un mese, eccetera. Anche questo qui specifica però in caso di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza. E questo è il 41 bis, parte così. Poi succede che arriviamo agli anni 90, e negli anni 90 ci stanno un sacco di episodi di mafia, l'omicidio di Falcone e poi Borsellino, tante altre aggressioni, vengono fuori tante leggi antimafia, eccetera eccetera. Il punto però bisogna soffermarsi su questo per capire il cambiamento, perché il nome è rimasto uguale, articolo 41 bis, che più o meno è la riedizione pari pari dell'articolo 90. Però il meccanismo del 41 bis è effettivo, cioè la legge formale dice queste cose, la legge reale, il 41 bis reale, dice tutt'altro. Allora, uno stacco musicale e continuiamo. Allora, il passaggio fondamentale avviene intorno alla metà degli anni 90. Certo, c'era la cosiddetta emergenza mafia, nel senso erano iniziate una serie di attacchi appunto dei mafiosi, oltre le uccisioni, eccetera, eccetera. Il cambiamento però è sostanziale e avrebbe avuto, questo lo dicono tutti i giuristi, il cambiamento non è soltanto in caso di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza per il quale le persone vengono messe al 41 bis, cioè fate una rivolta, state cercando di fare un'evasione e io metto il 41 bis, cioè blocco tutti gli spazi in quel reparto o in quel carcere. Non è più quello. Si va in 41 bis in base al reato per il quale si è entrati in carcere. Il cambiamento è sostanziale. L'articolo 90 o il 41 bis iniziale era diciamo una costrizione per coloro che si comportavano male, secondo ovviamente i carcerieri, che si comportavano in maniera diversa dalla normalità, quei detenuti appunto ribelli, sovversivi, rivoltosi o altro. Invece dalla metà degli anni 90 in poi vengono messi dentro le persone che sono state condannate per il titolo di reato, cioè reati in genere di carattere mafiosi, mafia, 'ndrangheta, camorra, tutte queste cose qui, la criminalità organizzata. E non è che facessero rivolte queste persone. Il motivo qual è? Il motivo detto, ma non scritto, è per evitare i rapporti con l'esterno, con l'organizzazione esterna. Dice, noi li mettiamo in 41 bis, cioè in questa situazione di isolamento, colloqui con i vetri, con i familiari, anche qui appunto riproducono l'articolo 90, i pacchi molto controllati e poche cose possono entrare da fuori dentro e così via. Molto riduzione, poca aria, non si capisce l'aria che c'è, per esempio fare un'ora d'aria o quattro ore d'aria che c'entra col rapporto con l'organizzazione esterna, ovviamente non c'entra, così come altre vessazioni, cioè se dite, perché viene detto non viene cambiato il titolo del 41 bis, che rimane sempre casi eccezionali e per diciamo tranquillizzare situazioni in alcuni reparti del carcere che sono esplose, che sono rivolte, tensioni eccetera, ma perché ci sono andati a finire delle persone che sono state arrestate per un certo tipo di reato, cioè organizzazioni, la grande criminalità organizzata, e il motivo è perché bisogna evitare i rapporti con l'esterno. Quello che dicevano soprattutto la stampa in quel periodo è che dicevano che i boss mafiosi, anche se in carcere, attraverso la corruzione o attraverso i rapporti con i familiari, riuscivano a mandare fuori gli ordini e quindi continuavano la loro azione di gestione dell'organizzazione, e quindi bisognava troncare i rapporti. Però allora, se tu dici i rapporti con l'esterno è un discorso, se tu diminuisci le ore d'aria non ha niente a che vedere con l'esterno, se tu fai altre vessazioni tipo sugli alimenti, che c'entra con gli alimenti con l'esterno, e altre cose. E allora viene fuori che in un codicillo del regolamento di questo nuovo 41 bis, che però rimane lo stesso, capite questa, cioè il problema è che c'è tutto un imbroglio, perché alcune cose non si possono dire esplicitamente, quindi non possono essere messe nella legge, questa che dirò adesso, un attimo, attenzione, fissatelo nella mente, quello che dirò tra un po', perché si violano alcune norme internazionali che pure lo Stato italiano ha firmato. Vengono messe invece nei regolamenti interni, che non vanno a finire sulle riviste internazionali, che invece si occupano di legge. Qual è quella cosa che non si può dire, ma che è diventata l'essenza del 41 bis, questo viaggio che ha fatto per tutti gli anni 90 fino a diventare? È il problema che perché appunto prima, così come l'articolo 90, il 41 bis era a periodi 3 mesi rinnovabili. Tu fai il cattivo per 3 mesi, se non ci riesco te lo rinnovo altri 3 mesi, ma a un certo punto, all'inizio era, si poteva rinnovare 3 volte, poi diventano 4 volte, e alla fine degli anni 90 lo mettono permanente, diventa permanente. E quindi non, già l'essere permanente non è più in casi eccezionali, perché l'eccezione non può essere permanente, non è più eccezione. Inoltre si dicono che è possibile uscire dal 41 bis e tornare nel regime normale di carcerazione se si diventa collaboratori di giustizia. Ecco l'elemento nuovo che ha cambiato completamente la faccia. E questa è una cosa importante che va, che perché non l'hanno messa, non hanno fatto una legge per cui si dice i detenuti della criminalità organizzata, però abbiamo detto, nonostante che quello che dice Repubblica, che non è vera, ma ci stanno anche altri, per esempio quelli così accusati di terrorismo, come lo chiamano loro, interno internazionale e di spaccio internazionale di stupefacenti, quindi è più ampio della semplice questione mafiosa. Non hanno potuto scrivere una legge in cui mettiamo queste persone in 41 bis con tutti i divieti possibili e immaginabili, se però collaborano li togliamo, li facciamo ritornare nel normale. Perché non si può dire questa cosa? Semplicemente perché le norme internazionali, aspetta che ci arriviamo, le norme internazionali di contrasto alla tortura, in molti paesi c'è la tortura, e quindi l'ONU ha fatto da tempo le norme contro la tortura, dicendo che è vietato, individuando per tortura che cosa? Non solo le vessazioni fisiche e psichiche, l'isolamento, tutte le malversazioni, ma soprattutto quando queste sono finalizzate ad ottenere dalla persona incarcerata delle confessioni, delle delazioni. Quindi l'elemento centrale della tortura non è soltanto delle malversazioni che si fanno, ma se queste malversazioni sono finalizzate a ottenere confessioni o delazioni. Questo è il senso della tortura. Per questo in Italia una legge sulla tortura ancora non è stata approvata e c'è questa grossa difficoltà, perché tutto il sistema invece della giustizia italiana è basato sulla delazione. Le inchieste vengono fatte, male o bene, questo non sta a me dirlo e non mi interessa, però prevalentemente quando arrivano poi alla condanna sono basate sulla delazione, sul pentito. Il pentito ha detto che tu sei, e quello viene messo in galera. Quell'altro pentito ha detto che, spesso senza nemmeno trovare riscontro tra quello che dice il pentito e le norme oggettive. Comunque il punto centrale è che c'è stata questa trasformazione che è sostanziale. Questa mette in campo un altro problema fondamentale, no? Allora, il carcere, che è la cosa più brutta del mondo e noi lo diciamo da sempre, a noi non ci piace, lo vorremmo abolire, tuttavia ha un suo meccanismo, cioè è stato costruito 500-600 anni fa, ha avuto la sua nascita purtroppo, come abbiamo detto più volte, contemporaneo alla fase della prima grande industrializzazione, per costringere, obbligare le persone a andare a lavorare in quei posti orrendi che erano le prime fabbriche che nascevano, per combattere il vagabondaggio e altre forme di rifiuto di quel tipo di lavoro, di attività lavorativa, che era appunto il lavoro in fabbrica. Ebbene, il carcere nasce ed è una cosa bruttissima, però ha un principio, altrimenti non avrebbe retto 500 anni. Il principio è che tu vieni incarcerato per un motivo, se hai rubato, hai rapinato, hai ammazzato, hai fatto qualunque cosa, hai fatto, va bene per portarti in galera, ma una volta che stai in galera, dice il sistema carcerario di qualunque paese, io ti seguo per capire se tu cambi. Cioè c'è questa idea del cambiamento a sostegno della galera. Se voi vedete la Costituzione italiana, all'articolo 27 dice: le pene non devono trattare in trattamenti disumani o degradanti e devono tendere alla rieducazione. È una parola che non ci piace, non ci è mai piaciuta, è bruttissima, la rieducazione, che vuol dire, però nasconde un fatto, il concetto che la persona incarcerata, come, anche se non è incarcerata, comunque quella incarcerata può cambiare nel corso degli anni. E quindi il trattamento, che significa seguire la persona incarcerata per vedere i suoi comportamenti e capire se sta cambiando, mi permette di vedere attraverso i suoi comportamenti in carcere se sta cambiando e sta diventando un'altra persona, e quindi la possibilità di appunto poi a agevolare l'uscita dal carcere, perché a quel punto è un'altra persona, non quella che è entrata. È un concetto che fa capo all'illuminismo, se volete, da tante cose. Comunque è un concetto non condivisibile, però è la ragione con la quale esiste il carcere. Altro invece è il ragionamento di dire: tu hai fatto un reato brutto, orribile, per il quale entri in carcere, e per me stato che ti tiene in carcere, rimani sempre quella persona, non accetto il cambiamento, per me non cambierai mai. Quindi entri in carcere per esempio associazione mafiosa e ci rimani tutta la vita e ne esci in cassa da morto sempre con quel marchio. Questa cosa diventa più arretrata di quella illuminista o positivista che diceva il carcere ti può cambiare, no? Disciplinandoti, modificandoti, ammaestrandoti, eccetera, però può cambiare. E invece quella dice, e questa ritorna un po' ai meccanismi dell'epoca più brutta del Medioevo, quando vigevano appunto le leggi teocratiche e dicevano: tu sei un peccatore e rimarrai sempre tale. Ti mettevano infatti il marchio di fuoco in testa. Il reato e il peccato erano la stessa cosa, cioè il reato in quei regimi veniva chiamato peccato, cioè trasgressione della norma che in quanto tale scende dal divino. Ecco, quindi si rifiutava il cambiamento, il percorso che è un cambiamento. Il carcere in questo senso è moderno, nel senso che accetta le valutazioni, fa proprie le valutazioni illuministe e positiviste, e dice: no, le persone possono cambiare. E io proprio, io stato, metto su dei meccanismi disciplinanti orribili, rozzi come mi pare, però perché penso, e poi ognuno, chi con l'isolamento, chi con la lettura, chi con il lavoro, chi con le varie cose, l'abbiamo raccontato più volte, no? Le varie scuole di carcere che hanno dato l'indicazione di come cambiare la persona, perché erano tutti convinti che attraverso il bastone e la carota, il lavoro o altre cose era possibile cambiare. Allora, mentre invece il meccanismo di dire tu hai fatto una cosa, entri perché hai rubato, rimarrai per tutta la vita ladro, questa cosa non fa parte della modernità, è precedente, molto precedente, fa parte appunto dei regimi teocratici che dicevano: tu sei un demone e rimarrai sempre demone, quindi non cambierai mai perché sei posseduto dal demonio. Ecco, e quindi attenzione per dire perché. Poi è ovvio che questa cosa nasconde che cosa? Il fatto che se tu fai la delazione ti faccio uscire dal 41 bis e ti torno a far carcerato normale. Che quello però non lo possono dire ufficialmente nella legge, perché significherebbe che l'Italia, nonostante abbia firmato le norme internazionali contro la tortura, accetta un meccanismo di tortura, perché se dice io ti metto in condizioni terribili e però ti faccio uscire se tu confessi, dice proprio il contrario di quello che afferma l'ONU nella dichiarazione, no? Quando dice, si chiama tortura tutte le pressioni, le malversazioni fisiche o anche psichiche, ma non fine a se stessa, volte a ottenere confessioni o delazioni. Questo è il senso della tortura. Allora, a questo punto il 41 bis è diventato tortura, non solo per le malversazioni che fanno, pure l'articolo 90 era tortura, perché hanno fatto pure l'articolo 90 e l'articolo 90 che si chiamavano i braccetti di lungo controllo, questo negli anni 70, perché dovevano fermare quella sovversione che c'era nelle carceri molto forte, allora veramente nelle carceri i carcerati organizzati volevano demolire, distruggere le carceri, liberarsi dal carcere, e hanno messo in moto un meccanismo per cui per esempio oggi in gran parte, in molte università del mondo, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, nelle università studiano i contenuti dei volantini e dei comunicati dei carcerati italiani degli anni 90, degli anni 70, perché ritrovano in quello l'essenza importante del rifiuto umano, dell'umanità moderna, a forme di restrizione di cui la galera è un elemento importante. Quindi è stata importante quella stagione, così come si studia per esempio i Black Panther. altre che qui forme di ribellione, di una situazione di oppressione di classe, però anche razzista, che riguardava appunto i neri, gli afroamericani statunitensi. In Italia era ancora più importante, perché era soltanto sociale, non c'era l'aspetto, l'elemento razzista in mezzo, era una rivolta sociale che fa vedere come la realtà umana non accetta forme di devastazione come quelle appunto articolate. Quindi è importante quello che è successo, però allora era forme di punizione per dire: devi stare buono, se no ti ammazzo le botte. Infatti i pestaggi, le punizioni, figura, c'era gente morta sotto i pestaggi negli anni 70, nelle carceri sono tantissime, molto più da adesso. I pestaggi erano all'ordine del giorno, perché c'era un atto, la violenza, io ti meno, ti violento, ti bastono, ti massacro, perché tu devi smettere di essere un sovversivo, un rivoluzionario, e quindi il rapporto era molto brutale. Ma non è che c'era questo aspetto: se tu diventi un collaboratore di giustizia, se tu confessi, se tu mandi in galera un altro, se tu fai la delazione, io ti tolgo da questa situazione. Quello no, tu devi diventare buono e basta. Io ti devo proprio, scusate la parola, ma sminchiare, si diceva così, perché molte carceri poi di origine, molte guardie carcerarie di origine meridionale usavano questa parola, sminchiare, che vuol dire romperti, massacrarti, farti soffrire fino a che tu smetti di fare il sovversivo e ti accetti questo ammaestramento. Il 41 c'ha qualcosa in più, di molto più grave, non tanto per le... Qui non, invece i pestaggi ce ne stanno pochi, non c'è pestaggi, non c'è bastonatura, anche perché tra questi detenuti non c'è rivolta. I detenuti, soprattutto quelli di carattere mafioso, oggi nelle carceri di 41 non c'è rivolta. Nelle carceri dell'articolo 90 c'erano anche rivolte, nonostante rirol, battiture, fermare l'aria, quindi botte in continuazione. Era un altro clima. Qui il discorso è molto semplice. Lo Stato dice: io ti metto in 41 bis, ossia ti divieto tutto, perfino i colloqui con i tuoi parenti, col vetro solo una volta al mese, eccetera, eccetera, e solo con quelli stretti, e non uscirai mai da questa situazione, puoi fare il buono, non mi interessa, finché, a meno che non fai la delazione, cioè non mandi qualcuno in carcere a posto tuo. È uno stravolgimento completo del senso, completo anche dei principi su cui il carcere moderno è passato, che ci fanno schifo, non ci piacciono, vanno abbattuti, ma qui torniamo ancora indietro, qualche centinaia di anni indietro. Cioè dire: io ti metto, quella che appunto l'ONU chiama tortura, sono vietate le parole, la declaratoria dell'ONU con la quale è definita la tortura. Tortura è tutte le vessazioni fisiche e anche psichiche volte ad ottenere confessioni o delazioni. Questa è la tortura. Non solo menare una persona non è tortura, è maltrattamento, cioè, ma per ottenere qualcosa, quella è tortura. Questo è l'elemento centrale. Ecco, quindi il 41 bis è tortura in maniera definitiva, e non c'è problema di dire mafiosi, non c'entra niente questa cosa qui, è proprio la tortura diventata legge, che non si ha il coraggio di mettere nero su bianco come legge, perché altrimenti si ricadrebbe, lo Stato italiano ricadrebbe sotto una sicuramente come dire, insomma, una critica internazionale, perché avrebbe smentito quello che pure lo Stato italiano ha firmato, ossia le norme contro la tortura. Allora, 15:48. Allora, per terminare questo discorso sul 41 bis, poi ci torneremo oggi perché diciamo, la notizia ci diceva che oggi, ci dice anzi che oggi, e tutti aspettiamo da un momento all'altro, che la Corte Costituzionale, ossia la Consulta, dica il suo parere sul fatto se prevale la sicurezza, cioè quindi continuare a vietargli tutto per evitare i rapporti all'esterno, così, oppure garantire alcuni diritti come quelli dell'informazione, dello studio, quindi libri, eccetera. Su questo, tra l'altro, c'è stato da qualche mese, quasi da un anno, si è sviluppato un movimento di protesta per denunciare questa cosa, no? Non permetti, cioè il divieto di poter far entrare libri a questi detenuti, di poter leggere libri presi dalle biblioteche oppure dall'esterno, che sembra una cosa abbastanza assurda comunque, perché poi le cose che entrano in carcere vanno controllate, ci stanno fior di tecnici che controllano se ci stanno messaggi, cose eccetera, quindi è abbastanza, ma il motivo ho cercato di spiegarlo, perché il cambiamento non è soltanto quello di dire voi siete cattive, io vi punisco, ma quello di dire qui è di uno scambio, come il voto di scambio che tutti, in realtà qui il carcere assume una cosa che non ha assunto nel passato, pur essendo una cosa tremenda, bruttissima eccetera, però questa cosa dello scambio non l'ha mai avuta come centrale. Adesso col 41 bis, con questo 41 bis diverso da quello che dice la legge che l'ha formulato nell'86, appunto, diventa di scambio. A te ti metto in condizioni tremende per tutta la vita, non c'è problema, finché non passi dalla mia parte, non per farti diventare una brava persona, quindi per andare fuori a fare il bravo impiegato, il bravo padre di famiglia, no, non mi frega niente quello dice lo Stato, tu mi devi dire, devi fare la delazione, cioè devi mandare in carcere, devi fare la confessione, quella che proprio appunto l'ONU e tutte le norme internazionali vietano, perché ritengono che sia appunto l'essenza della tortura. Questa cosa, perché riteniamo che sia importante che tutti la guardino con attenzione, questa è il 41 bis? Qualcuno dirà, vabbè, ma se sono solo 670, 680 persone in 41 bis, non è un numero spaventoso, tutti gli altri 55.000, occupiamoci di tutti gli altri, certo. Però attenzione che il carcere, come struttura molto rigida e anche militare, quello che avviene all'alto poi in un modo o nell'altro si trasmette nella piramide, come questa piramide, no? Noi pensiamo che il 41 bis è il vertice di questa piramide, alla base ci stanno 54.500 detenuti che attualmente ci stanno, più tutti gli altri, più altri 40.000 in controllo penale esterno, cioè semilibertà, lavoro esterno eccetera, e quindi sono quasi 100.000 quelli sottoposti a controllo penale in generale. Perché riteniamo che sia importante? Certo, poi bisogna occuparsi pure di altre cose, ci sono mille lavoro che manca, tutte cose, però questa è centrale. Perché? Perché avendo introdotto questa norma, questo elemento del carcere di scambio, cioè io ti metto in condizioni pesanti, finché tu non dici quello che io voglio che tu dica, non vai a fare, non fai una delazione per come la voglio io, ti dice il magistrato, io da qui non ti faccio mai uscire, quindi nemmeno penso lontanamente che ci sia un percorso di cambiamento, non mi interessa se tu cambi, ci stanno tanti casi oggi sui giornali perché si parla di questo 41 bis, che alcuni dicono che quello che è entrato in carcere sempre per mafia, mafia, che era analfabeta, poi in carcere ha studiato, hanno preso chi una laurea, chi due lauree, chi tre lauree, cioè sono anche cambiati da analfabeti che facevano i mafiosi, adesso stanno in carcere da 10, 20 anni, 20 anni e sono plurilaureati. Ma questo non gli frega niente allo Stato, io voglio che tu mi fai la delazione, se no da qui non esci mai. Questa cosa perché è brutta? Perché appunto torna indietro non solo di 500-600 anni, quant'è l'età del carcere, ma molto indietro, oltre 1000 anni indietro, nei periodi più neri della storia dell'umanità, dello scambio. Io ti faccio il supplizio finché tu non mi dai qualcosa in cambio. Questa cosa è grave perché già è grave in quanto è passato questo principio, ma questo principio si può allargare a tutto il carcere, a tutta la società, e così sta avvenendo. 680 sono quelli e le persone in 41 bis a cui viene chiesto questo scambio: fammi la delazione, se non ti faccio uscire più, anzi ti peggioro sempre le tue condizioni di vita. È passato ai 1600 in ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è un'altra forma che è andata, l'ergastolo c'è sempre stato in Italia, però l'ergastolo è brutto, fa schifo, cioè, però è possibile uscire dopo 26 anni di detenzione, sempre se il comportamento è sempre, fa parte dell'altro principio, il comportamento è quello che decide. Tu ti sei fatto l'ergastolo, cioè con l'ergastolo ti sei fatto 26 anni, ti sei comportato bene come vogliono loro e quindi puoi cominciare a uscire in libertà condizionata per altri 5 anni e poi finito la pena. Questo è l'ergastolo normale. Loro dicono no, ad alcuni reati, non alcuni comportamenti, attenzione, anche qui vale il principio di scambio, ad alcuni reati io dico no, tu entri con l'ergastolo e non esci più, infatti lo chiamo ergastolo ostativo, non hai permessi, non hai sconti di pena, ci rimarrai fino a che esci in casa da morto, a meno che non mi fai la delazione anche qui. E quindi già è passata un altro elemento e investe altre 1600 persone, più le 600, siamo già a 2002, nel senso che se tu mi fai la delazione io ti faccio uscire. Vedete come man mano si, no, plana questo mostro, è un mostro, perché è veramente un mostro, più mostruoso del carcere violento che abbiamo sempre criticato, condannato e continuiamo a criticare e che vogliamo abolire. Però questo è ancora un passo molto indietro, molto molto importante, molto di molto indietro, quello dello scambio, perché azzera il principio della identità, cioè io, e soprattutto abolisce il principio che fa parte della moderna, ma anche dell'umanità in quanto tale, il fatto che una persona può fare una cosa tremenda, brutta, però poi può cambiare, cambia anzi, se no noi dovremmo uccidere tutte le persone che fanno una cosa che non ci piace, se pensiamo che non può cambiare. E invece le persone cambiano, ovviamente, no? Ecco, non riconoscere il cambiamento, ovviamente non attraverso questi strumenti di sofferenza come il carcere, ma in generale, però poi questa cosa si trasmette, quindi non accettare il cambiamento significa poi che questa cosa plana su tutto il resto della società, su tutti gli altri rapporti sociali. Quello è così, voi pensate gli elementi di razzismo in mezzo a noi, per esempio, che dicono? Per esempio i Rom, i Sinti, cioè gli Zingari, qualcuno di questi fai furti. Allora la Vulgata dice gli Zingari rubano, e sempre così, anche se poi diventano studiosi, professori, scienziati, ricercatori, i Zingari rubano, questa cosa rimane. Oppure gli stranieri che vengono, cioè gli immigrati rubano anche loro, perché qualcuno sicuramente ruba, ma pure qualche padano, qualche bergamasco, qualche trentino, qualche romano, qualche fiorentino ruba, e infatti però prima si diceva, no, per esempio alcuni del nord dicevano i napoletani rubano tutti, perché qualcuno ruba, cioè così si alimenta un razzismo molto pesante, perché si crea l'immobilità della persona, una persona ha in fronte un marchio indelebile. Ora questa cosa plana, perché è sempre stato così, considerate, e questo lo diciamo a conclusione, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, quel grande massacro, il più grosso massacro orribile fatto dall'umanità nei suoi centinaia di migliaia di anni di vita, l'umanità ha fatto la cosa più brutta, è quella, la seconda, quella fatta in questi luoghi qui in Europa e in tempi recenti, solo 70 anni. Ebbene, dopo la seconda guerra mondiale, quelli che l'hanno studiato, molte persone, lo stesso Primo Levi, tanta altra gente uscita viva ancora dai campi di sterminio, con una voglia di vivere molto ridotta, la forza di continuare a vivere era data dal fatto: dobbiamo raccontare che cosa sono i campi di concentramento diventati i campi di sterminio, perché così l'umanità potrà evitare di ricascarci. E quindi hanno dato alla propria vita questo compito di raccontare, e hanno raccontato. Ragionando e raccontando, sono arrivati alla conclusione che il campo di concentramento, da cui campo di sterminio, non è altro che la conseguente continuazione, estremizzazione, ma conseguente, del sistema concentrazionario di cui il carcere è l'essenza. Cioè hanno detto: guardate che il campo di concentramento non è un'altra cosa, è semplicemente una prigione, no? Che viene radicalizzata, ma non viene da un altro pensiero, da un altro modello, dal modello del carcere. Campo di concentramento probabilmente c'è sempre stato, in epoca moderna l'abbiamo visto diffondersi nella guerra anglo-boera nel Sudafrica, tra i boeri, cioè i coloni olandesi che si erano insediati da prima, e gli inglesi che volevano togliergli quella parte importante, il Sudafrica. In questa guerra anglo-boera si svilupparono i campi di concentramento, poi si sono riprodotti per esempio i francesi durante la guerra d'Algeria, e poi appunto nella seconda guerra mondiale hanno preso la loro estensione sotto il regime nazista, diventando campi di sterminio. Ma hanno detto loro, quelli che erano usciti ancora vivi: guardate che questa cosa è, infatti non a caso il movimento abolizionista delle carceri prende vita nell'immediato dopoguerra, da quella gente che era venuta dai campi di concentramento e che aveva notato e analizzato questa conseguenza. Il campo di concentramento e poi il campo di sterminio non sono altro che la continuazione del sistema centrale, del sistema concentrazionario, cioè del carcere. Quindi attenzione, bisogna togliersi questo elemento centrale, perché altrimenti non si riproporrà. E infatti siamo esattamente qui.